Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Riccardo, che mi dici? Siamo in onda? Siamo in onda. Eccoci qui. Buona domenica a tutti da Gegè Telesforo, qui dal Groovemaster Studio per il secondo appuntamento di questa quinta stagione del soundcheck della nostra prova del suono su Radio 24. E comunque questa è la puntata numero 421 puntate con quella di oggi prodotte e in onda. Eccoci qui, siamo pronti in un Groovemaster Studio rinnovato da un punto di vista tecnologico e infatti io voglio ringraziare uno degli elementi fondamentali di questa quinta stagione che sarà, e lo abbiamo presentato anche ieri, il nostro ingegnere del suono Riccardo Bomarzi. Buonasera Riccardo e ben ritrovato. Buonasera a tutti. Ecco, noi adesso siamo qui nel nostro studio, ma tutto a posto sul palco per il concerto di questa sera? È tutto pronto. Abbiamo anticipato i tempi. Quindi la nostra ritmica è già partita e invece ho tenuto con me, proprio perché è il contraltista, il sassofonista, flautista della band, mio fratello Alfonso De Ida, perché noi il soundcheck lo facciamo anche un po' dopo. Buonasera Alfonso e ben ritrovato. Buonasera a tutti, grazie DJ. Mamma mia Alfonso, io oramai non so dove inizia il musicista e dove finisce invece il mio affetto per te. È una cosa incredibile. Quanti anni abbiamo fatto di musica? All'incirca 20-25. 25 anni, cioè un figlio all'università, sì. Laureato. In pratica, 20 minuti di musica. Hai mai pensato a quanti concerti abbiamo fatto insieme? Ma credo sicuramente più di un migliaio. Un migliaio di concerti, è spaventoso. Quindi un migliaio di concerti significa un migliaio di viaggi, un migliaio di alberghi, un migliaio di cene, un migliaio di tutto. Mamma mia, una vita insieme. Sì, perché con Alfonso ci siamo incontrati musicalmente nel 1997-98, giusto? Sì, forse già qualche anno prima ci siamo incontrati, in un'occasione. Beh sì, avevamo fatto già qualcosa prima, però poi abbiamo iniziato a collaborare e a suonare quando la mia band, i Pure Funk Live, mi lasciarono per strada per seguire Marco Rinalduzzi che stava producendo Alex Baroni e partirono in tournée con Alex Baroni. E allora io rimasi senza band e mi dissi, ma io devo andare, allora dove devo andare? Dov'è la New Orleans italiana? E naturalmente, lo penso sul serio, Salerno, fucina di grandi musicisti e di grandi artisti, dove con tuo fratello Dario, con te, Julian Oliver Mazzariello e poi tutti gli altri musicisti che abbiamo incontrato, mettemmo su un organico che ancora oggi in qualche modo ci lega, perché noi continuiamo a lavorare insieme. A tuo fratello Dario ho prodotto il nuovo disco che esce fra qualche settimana. Insomma, siamo una famiglia. Certo. Io sono felicissimo di essere diventato parente della famiglia De Ida. E io anche sono felice. Bene, allora siamo tutti contenti, possiamo dare il via all'appuntamento di questa sera. Allora, oggi vorrei ricordare proprio la nostra collaborazione, perché abbiamo fatto tanta musica insieme, e suonare anche delle cose tue. E poi, se ti va, siccome abbiamo gli strumenti a disposizione, e il pianoforte è cablato? È tutto funzionante, è accordato perfettamente. Ma accordato, sì, non è che ha perso l'accordatura in una notte, no? Vabbè, comunque è microfonato, quindi se... Sì, vabbè, non so se è il caso di farmi suonare... Perché tu suoni così bene? Sai che io poi sono più compositore che pianista. Ma tu suoni bene. Però ecco, allora hai suonato il pianoforte nelle mie band per anni. Infatti, non so se è stato un bene per te. È stato un bene perché abbiamo anche registrato un album intitolato So Cool dove suoni benissimo il pianoforte. Vabbè. Sì, perché Alfonso De Ida è un polistrumentista. Se la suona, se la canta, se l'arrangia, se la compone. È diventato sassofonista per colpa di suo fratello Sandro, ma il pianoforte è forse il primo strumento con il quale tu hai legato e che ti ha dato la possibilità di poter conoscere la musica e tutta la musica che si suonava a casa tua, da quella napoletana al jazz e al resto, per merito di tuo padre e di tua madre. Allora, io direi di partire con una produzione di diversi anni fa. Il brano si intitola Freedom Jazz Dance, questa è la nostra versione funk da un album intitolato We Couldn't Be Happier, album dedicato un po' al periodo degli anni 70, un celebre cavallo di battaglia di Eddie Harris. La versione discografica di Miles Davis è senz'altro quella più famosa, ma questa nostra versione, con il tema dilatato sul ritmo e il groove creato insieme a tuo fratello Dario, a Julian Oliver Mazzaria, lui alla batteria c'è Jean-Pierre Virtuoso, lo chiamavo così alla francese, il bravissimo Jean-Pierre Virtuoso, è diventato una sorta di masterpiece. E c'è anche Marco Rinalduzzi. Marco Rinalduzzi, come no, alla chitarra, pezzo da 90 in tutti i sensi. E questa è la nostra versione di Freedom Jazz Dance al soundcheck di questa sera. Sì, questa è la nostra versione di Freedom Jazz Dance quando ci riunimmo insieme ai fratelli De Ida, Dario e Alfonso De Ida, che è qui con me questa sera, mettendo su questa band che proponeva una musica particolare per quel periodo, perché sì, c'era il jazz nel nostro paese, ma band che mettevano insieme il groove, il funk, la passione per James Brown o per il primo Prince con Charlie Parker, allora eravamo veramente all'avanguardia. Va bene, questo è il soundcheck di Radio 24. Alfonso De Ida, nostro ospite, polistrumentista, sassofonista, contralto, flautista, ma poi i sassofoni li hai comprati tutti, cioè gli strumenti a ancia ti piacciono? Qualcuno, sì. Forse l'oboe non hai comprato? No, quello no. Però il clarinetto basso ce l'hai? Clarinetto basso, sì. Sì, lo sai che ho tirato fuori un brano dove suona il clarinetto basso? Addirittura? Sì, sì, poi lo faccio sentire. Ah, ok. tu sei un appassionato anche di una certa fusion che si ascoltava negli anni 80, che era poi la musica della tua generazione. Certo. Quella che ci ha un po' formato, me, Dario, anche Sandro. E, credo che tu stessi parlando di Don Grolnick. Beh, sto parlando, sì, vorrei arrivare a parlare di Don Grolnick, che poi è il musicista intorno al quale si è formato tutto quell'ambiente di artisti che noi abbiamo seguito, da Michael Brecker, tenorista, ahead, gli Steps Ahead al completo, ma anche chitarristi come Mike Stern, Robin Ford, il periodo proprio quello dei Yellow Jackets, non so se ricordi. Come no, cavoli. David Sanborn, David Sanborn è il primo Marcus Miller. Certo, guarda, Yellow Jackets è una delle mie band preferite. Però il migliore, secondo noi, restava come compositore e resta ancora oggi Don Grolnick. Per me sì. Se non conoscete Don Grolnick, pianista che è stato poi diciamo l'artefice anche del successo di alcuni album di James Taylor, perché era lui l'arrangiatore e il band leader di James Taylor, Don Grolnick era al tempo stesso un eccellente pianista, non tecnicamente fortissimo, ma aveva proprio una visione armonica e ritmica in quel periodo all'avanguardia, e realizzò nell'85 questo album intitolato Hearts and Numbers con Michael Brecker, chi era il bassista? Will Lee, meraviglioso bassista, e c'era Steve Jordan, anche Peter Erskine in alcuni brevi, ma qui c'è Steve Jordan che fa paura, un architetto, spacca il metronomo, giusto? Sì. Il brano si intitola Pointing at the Moon, Don Grolnick. Ragazzi, se non conoscete Don Grolnick, purtroppo dovete comprare questo disco subito. Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. Si intitola Just for a While, una composizione di Alfonso De Ida, nostro ospite, tratta da un album pubblicato un paio di anni fa intitolato Lucky Man per Via Veneto Jazz, e naturalmente la produzione di Gian Domenico Ciaramella per Giando Music, album che forse per la prima volta vede Alfonso De Ida alle prese proprio con il clarinetto basso. Sì. Poi non so se hai registrato altre volte con il clarinetto basso. Sì, per la verità sì. Beh, comunque questa mi sa che è stata la mia prima volta in assoluto. E io trovo questo brano splendido e non capisco perché tu non lo faccia mai durante i tuoi concerti. Non si sa perché. Non si sa. Perché questo lo puoi suonare anche col flauto, funziona. Certo. No? Certo. Al pianoforte c'era un altro meraviglioso musicista, Julian Oliver Mazzariello, il tutto tratto da un album che ha la sua bella complessità, insomma, nelle composizioni, sotto tutti i punti di vista. È un album, lasciamelo dire, abbastanza complicato per qualsiasi musicista da suonare e da interpretare. Sì, credo che alla fine, in generale, la musica vada provata e vada provata in tutti i suoi aspetti, anche in quello dell'interplay, per dire. Ci sono degli aspetti anche improvvisativi che vanno messi insieme, ma è importante provare, è importante fare provini, è importante stare lì a lavorare molto su queste idee. Ecco, tu sei molto meticoloso quando lavori, lo so, abbastanza. Perché più volte ho chiesto il tuo aiuto come arrangiatore su alcune mie composizioni e mi presenti sempre dei provini che poi sono quasi imbattibili, cioè i tuoi provini, io mi vergogno poi a realizzare il disco perché i tuoi provini sono già un piccolo capolavoro e li conservo tutti, Alfonso. L'abilità, tra l'altro, tu non sei un super esperto sul computer, no. Però riesci a realizzare è proprio la mentalità, è il tocco che hai, è però il piglio del musicista. È che a me piace far suonare le cose, cioè mi piace suonare, per dire, se programmo la batteria la faccio pensando da batterista. Non so se tu mi capisci. Lo so, ti capisco perfettamente. O se sono il basso, lo faccio pensando al basso che sta suonando. E a quale basso pensi tu? Mio fratello. non è che mio fratello è un basso. Beh, tuo fratello è il bassista per antonomasia, è proprio il basso elettrico. Sì. Tra l'altro ha vissuto adesso 2 settimane da protagonista a New York, al Village Vanguard, con il trio di Kurt Rosenwinkel, chitarrista, insomma, top della nuova generazione, Gregory Hutchinson alla batteria, e poi la settimana successiva sempre al Village Vanguard a New York, che è il top del club di New York, in quintetto con Mark Turner al tenore. Mamma mia, un'esperienza fantastica. Però sta per uscire il nuovo album di tuo fratello. Ecco, tuo fratello è indolente, io glielo ho sempre detto. È incredibile che nell'arco della sua carriera come grandissimo bassista abbia registrato soltanto 2 album, uno deve ancora uscire, e solo perché glieli ho prodotti io, certo. No? Però ha registrato tantissime cose e ha registrato anche per una tua band chiamata Cuban Stories, no? Sì. Riuscisti a coinvolgere per questa esperienza in chiave latina, perché tu sei anche cubano, cioè hai qualcosa di cubano nel cuore. Sì, non lo so, però non si sa perché. Però ce l'hai. Ma sei mai stato a Cuba? No, non sono mai stato in nessun paese latinoamericano, per dire. Ma come fai ad avere questo tocco? Cioè c'è il montugno nelle mani, c'è la clave. Diavolo è? Non lo so. Alfonso, tu veramente sei qualcosa di speciale. E vi voglio dare una prova. Qui non c'è tuo fratello Dario al basso, mi sa. Dice Antonio Di Luise. Antonio Di Luise, la formazione qual è? La formazione è praticamente Giuliano Oliver Marzariello. Ecco, aspetta, Bomarzi, inizia a far partire il brano. Alessandro Lacorte. Antonio De Luise, Gerardo Palumbo e Gaetano Fasano. Eccoli qui. Sono un po' tutti gli strumenti. Tutto il resto hai fatto tu. Cuban Stories, Alfonso De Ida, qui al soundcheck di Radio 24. Il brano si intitola Si Inverte, giusto? Sì, giusto. Soundcheck. Il suono della musica. Siete in contatto con The Groove Monster Studio per il soundcheck di Radio 24 con Gege Telesforo, con noi l'ingegnere del suono Riccardo Bomarzi. Come sono contento, Bomarzi, che fai questa stagione con me. Sì, è bellissimo. Sei contento di fare radio? Vorrei dire una cosa, è come stare al parco giochi qua. Che meraviglia, grazie, è bello. No, perché è bello, ma anche perché conosciamo tanti amici musicisti, insomma, per... sarebbe per un appassionato di musica è il luogo ideale dove trascorrere, ecco, infatti mi sto divertendo anche perché c'è mio fratello Alfonso Di Ida, al quale vorrei chiedere se ci suona qualcosa al pianoforte. No, scusami, scusa Alfonso, io ho fatto un investimento quest'estate, ho speso ulteriormente altri soldi per attrezzare lo studio e dare la possibilità a voi di suonare dal vivo in radio, quindi dammi sta gioia, no? Fammi ammortizzare il costo. Cosa devo suonare? Suona anche uno standard di jazz, che ne so. Fammi pensare, potrei, pensandoci bene, potrei farti un regalo. Un regalo, cioè? Potrei suonarti un brano inedito mio. Ah, questa è una cosa bellissima. E dai, e vai. Proprio un'ultima composizione. Va bene. Aspetta, allora mi vado a posizionare. Sì, vatti. Però, a scusami, facciamo una cosa, perché non mi accompagni così? E che ti accompagno? Con una percussioncina, cosa hai qui? La tarabucca. Allora, dai, mi aperto il piano. Sul serio? Sì, sì, sì. E che roba è? Vai. Va bene, Alfonso De Di dal soundcheck di Radio 24 si sta posizionando al pianoforte. Bomarzi, questo è acceso, questo microfono qua? Possiamo usarlo. Va bene, grazie. Alfonso, ti seguo. Ma è bellissimo, Alfonso, è bellissimo, una composizione meravigliosa. A Bomarzi, facciamo l'applauso, scusami. Chiedo scusa per il... Che cosa? Perché, ma era bellissimo, ha suonato così. Al volo, meraviglioso, ma bellissimo, proprio la melodia. Bellissimo. È un brano un po' sentito. Vabbè, io l'ho già registrato. Come l'hai intitolato sto brano? Il titolo, sì, lo vorrei dedicare a mia moglie. Ma che carino. Che dici? Sì, faccio una bella cosa. No, perché io pure lo devo registrare, ma l'hai già depositato? Lo depositiamo. Sì, lo depositiamo. Facciamo adesso Subito il deposito, va bene. Lovely Laura, bene, dedicato a tua moglie. E a questo punto, mio caro Alfonso, io ti devo salutare, anzi ci salutiamo con un'altra tua partecipazione a un progetto che ci vede protagonisti insieme, ovvero Fans Low Ride per la Rope Dope americana distribuzione Egea, con tutti quei formidabili cantanti come Joanna Titters, Alan Hampton, Sacha Vasandani, Moses Patrum, ma poi ci sono anche Ainè, Greta Panettieri, Max Ionata al tenore, quanti musicisti, i nostri Dario Panza, Sebi Burgio, fratello Joseph Bassi, ma c'è anche Amin Salim, un super progetto, oltre 20 musicisti coinvolti, e Riccardo Bomarzi che ha registrato come ingegnere del suono. Quindi grazie a tutti voi, chiudiamo con The Green Doctor, ci risentiamo sabato prossimo a partire dalle 19:15 qui dal Groovemaster Studio per il soundcheck di Radio 24. Grazie Alfonso, grazie Riccardo. Grazie a te. Prepariamo la macchina che si parte, ragazzi. Andiamo.